Admeto, padre re, se a quanto basta, onde premier in te braccio si prode, chiami il rege la figlia e salvo il regno. Chiedi sì, chiedi pur, tutto otterrai. Se dunque generoso, grande premio, signor, darmi tu puoi, ben un grande ne chiedo. Io t'ho richiesta, sappi che tratto sotto quella forza che del braccio tu guida al fausto colpo. La tua figlia real, d'origlio chiedo. Mia figlia. E che? Sto portire che forse con ignoto pastor chieda tant'oltre. Tra queste vile spoglie si asconde chi non pensi. I casi miei mi vogliono per ora, quasi direi, ignoto anche a me stesso. Ad illustrarti basta l'atto sublime, e già ti fa ben degno l'esser liberator di tutto un regno. Olà, venga Dorilla! Gioisci, anima mia! Già tu cominci a sopportar dell'opera il dolce frutto, e se fui fino ad ora d'amor scherno infelice, ch'io godrò pure il fine, il cor mi dice. Qui se devi la vita, devi ancora il tuo cor. Ehi, cerca in dono ciò che gli va in mercede. Questo è tutto il tuo amore, gratitudine il vuol, obbligo il chiede. Come la cosa fuori se la corona, ai vanti onde premia il prode invitto, senza turbare l'onore del nostro sangue. Tu non sai che un messia, ma pur s'oscura fosse la fonte di quel sangue che mi scorre, da mie gesta illustrata, caligine a portar al tuo potrio. Ne vano e fone ne dubbio con sagace silenzio il suo natale, il tutto che gli vuole fa fare si vecchio, è un atto che sarebbe forse non suo, ma sforzato dal cielo mi ha salvato.